L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'altra Europa, l'Europa delle storie, l'Europa della quotidianità, l'Europa delle opportunità, le coordinate per trovarci, un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee, il portale euronetplus.eu che come sempre vi invito a visitare perché è un'ottima vetrina di quello che succede in Europa, tante storie, tanti dossier, tante documentazioni in tante lingue diverse, quindi è veramente un tuffo nelle altre culture. E se invece volete incontrarci e frequentarci anche sulle nostre piazze virtuali, chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, il mio account personale, ci trovate sia su Facebook sia su Twitter, pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare ogni settimana. Un viaggio con noi oggi ci sarà Neri Marco Re, con lui parleremo di Erasmus Plus, ci sarà Massimo Carlotto con cui capiremo cosa vuol dire fare oggi cultura dell'integrazione e poi come sempre tante possibilità, tante direzioni che questa Europa può offrire. Ogni settimana un viaggio, ogni settimana tanti argomenti. Oggi partiamo celebrando quella che è la giornata mondiale dei bambini di strada. Agghiaccianti, solo nel Regno Unito sono 100.000 i bambini che scappano di casa dalle strutture di accoglienza, ogni anno 100.000, sono pochissimi dati sul fenomeno in Europa dei bambini che scappano di casa, dei bambini che scelgono di vivere in strada, ma con un aumento repentino in tante nazionalità, il 12% nel Regno Unito, il 43% in Irlanda, il 36% in Ungheria, il 38% nella Repubblica Ceca. Oggi 12 aprile è la giornata internazionale dei bambini di strada, c'è un importantissimo progetto europeo finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma DAFNE, progetto che nasce nel 2013, si chiama Children Rough Sleepers. Con noi c'è il capo progetto per l'Italia, diamo il benvenuto a Nick Fouché. Ciao Nick, benvenuto all'altra Europa. Ciao Federico, le percentuali che hai quotato volevo solo dire che risalgono dal 2007 fino a più o meno 2013, perché si trattano di percentuali chiaramente che sono difficili da verificare. Niente, volevo solo accennare questo già dalla partenza. Hai fatto benissimo, numeri comunque che rimangono agghiaccianti, così li ho definiti, di un fenomeno che si conosce pochissimo, giusto? Chiaramente, sì, ti do un esempio, se noi parliamo solo dei minori non accompagnati, possiamo dire solo che nel 2012 c'erano 1754 minori non accompagnati che non si sapeva traccia, quindi erano intracciabili. I minori scomparsi solo nei primi mesi del 2012 in Italia per tutto il territorio nazionale sono 439, quindi questi sono dati dalla Polizia di Stato, sezione minori, quindi puoi già capire che questi sono numeri un po' invisibili, dobbiamo anche chiederci come chi ricerca sul campo quali di questi sono finiti come i bambini di strada e dove sono finiti. Ecco. Certo, Gran Bretagna, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna sono i 10 paesi coinvolti in questo progetto. Qui c'è tutta l'Europa, c'è l'Europa del nord, del sud, c'è l'Europa ricca, c'è l'Europa più povera, vuol dire che è veramente un problema trasversale. Sì, qui tengo a precisare che nel progetto rappresentiamo 39% del territorio europeo, quindi non tutta l'Europa, però già possiamo dare dei segni anche diffondere la conoscenza, noi diciamo raise awareness in inglese, sono irlandese, di cittadinanza, quindi e quindi questa è la cosa più importante, è finire con dati concreti per proporre anche al livello europeo, ma anche sul livello nazionale, per tutto il territorio europeo, per mettere in stanziare delle politiche che possono in modo molto concreto rispondere a questo fenomeno. Certo, capire il fenomeno, fare formazione e informazione, organizzate workshop formativi, esattamente, cercate esattamente. Sinergie tra le agenzie e gli attori del territorio. E poi immagino ci sia anche l'incontro diretto con questi bambini. Abbiamo già fatto delle interviste con questi bambini, quindi la cosa più importante, infatti l'ha accennato molto bene, è di sentire proprio dalla bocca di chi vive questa esperienza la loro esperienza, è cercare di proprio, noi diciamo in inglese map and gap, cioè mappare e tappare i buchi dove i servizi non rispondono in modo adeguato al fenomeno. Certo, operativamente è difficile, immagino, dare una soluzione, perché ogni bambino è una storia a sé, però voi dove tentate di operare principalmente? Cioè c'è un anello che più di altri va tenuto sotto controllo, va potenziato, va tutelato? Sì, tieni presente che per questi 2 anni lo scopo, anche per rispondere meglio e dare le risposte più efficaci alla situazione, l'accento è sulla ricerca, quindi Daphne 3, che è un programma europeo che finanzia progetti che vanno sulla prevenzione, proprio certo. Particolarmente nel campo della violenza contro le persone più vulnerabili, cioè donne, bambini e immigrati. Sì. Noi vogliamo più che altro capire dove sono i problemi, cioè come ritorno a quella frase map and gap, capire dove sono inadeguati i servizi e rispondere in modo molto molto efficace ai buchi, cioè ai buchi nei servizi. Certo, perfetto Nick, grazie davvero. www.childrenroughsleepers.ch, il sito internet per conoscere l'intero progetto, link che abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Federico, sei stato gentilissimo, grazie mille anche per la disponibilità. Grazie a te Nick, a te e a tutti i tuoi collaboratori. Ciao, buon sabato. Un euro Post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro Post-it. Scatta per l'Europa. Se la fotografia è la vostra passione e vorreste vedere pubblicato un vostro scatto su un sito internazionale con migliaia di utenti come quello del Parlamento Europeo, questa è la vostra occasione. Prosegue infatti il concorso indetto dal Parlamento Europeo rivolto ai giovani fotografi. Illustrate con una vostra foto uno degli articoli che appaiono sul sito del Parlamento. Fino alle elezioni di maggio sarà scelto mensilmente un tema diverso. Il vincitore vedrà la sua foto pubblicata e potrà essere chiamato a partecipare alla sessione plenaria di Strasburgo al mese di luglio. Il prossimo tema da illustrare è Plastic Bags, buste di plastica. Il termine per l'invio delle foto e del formulario di partecipazione è fissato alla mezzanotte di martedì 22 aprile. Trovate tutti i link per partecipare sul sito del Parlamento Europeo, europarl.europa.eu, cercando Photography Contest. L'altra Europa. Erasmus Plus. Welcome to Erasmus Village. If you're a teacher, youth worker, or lecturer searching for exciting new possibilities, there might be some professional development. Woohoo! You can work work together to share teaching practices across Europe. Erasmus Plus ti cambia la vita, ti apre la mente. È stato lanciato ufficialmente il progetto, il programma Erasmus Plus, che coinvolgerà nei prossimi 7 anni oltre 4 milioni di persone per studiare, formarsi, lavorare o fare volontariato. Un lancio che è stato fatto a Firenze, in pompa magna, tanti protagonisti, sia istituzionali, sia persone che hanno portato la loro esperienza, sì, sia chi è andato lì su quel palco per così fare ironia, fare facile ironia sull'Erasmus. Diamo il benvenuto a Neri Marco Re. Ciao Neri. Ehi, ciao Fede. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Intanto sai che questa mattina sono andato a spulciare al volo tra le tue 1000 interviste. Tu hai fatto l'Erasmus? No. No? No, però ho fatto comunque insomma viaggi in Europa e per studio. Quando facevo scuola interpreti c'è stato uno scambio con la scuola interpreti di Monaco e quindi da Bologna sono andato su per 3 mesi, mi pare, l'ultimo anno, in cui dovevo approfondire il tedesco e l'inglese avevo già finito, e quindi quella è stata un'esperienza simile all'Erasmus, ma con un altro nome, diciamo. Di fatto. Prima la parte seria, poi giochiamo anche su quello che hai fatto, la tua esperienza personale e professionale, di quando ancora facevi, pensavi, sognavi di fare l'interprete invece che l'attore. Tu avevi già vocazione europea all'epoca? Come dici? Avevi vocazione europea, cioè eri al di là delle lingue, guardavi al di là dei confini, sì. Sì, era non a caso, però penso, non al di là delle lingue, perché il fatto di scegliere comunque un liceo linguistico e successivamente una scuola interpreti era comunque legato proprio all'osservazione di quello che stava succedendo. Vedevo che comunque insomma l'Europa era già unita per certi versi, insomma c'era il mercato comune europeo e si parlava insomma comunque di questo allargamento, insomma, dell'abbattimento dei confini, e quindi pensavo che comunque studiare le lingue sarebbe stato un settore nel quale sarebbe stato poi più facile forse trovare lavoro rispetto ad altri, perché poi insomma ero un po' indeciso tra varie possibilità. A me piaceva matematica, piaceva anche insomma le arti figurative, quindi ero tra linguistico, artistico, scientifico, insomma c'erano un po' di possibilità, e già scegliere il linguistico a 13 anni, insomma 14 anni, era certo in questa funzione qua. Mm-hmm. E ci credi ancora oggi in questa cosa chiamata Europa? Sì, credo ovviamente che ci sia la necessità di aggiustare qualcosa che è nato sulla spinta di un movimento già che risale al dopoguerra, insomma già da Spinelli, insomma i padri dell'Europa, ma quindi tutto quello che c'è di buono è stato alla base di questa unione. Ovviamente le varie politiche, insomma, ecco, lamento il fatto che non ci sia ancora una, oltre alla moneta unica, una politica comunitaria vera, perché al di là di quello che decide Draghi così sull'euro, poi dopo le vediamo gli scompensi legati a quello che decide la Merkel rispetto a magari ad altri paesi più deboli, insomma, quindi ci vuole proprio una politica comune condivisa, non soltanto paesi diversi che vince il più forte o stabilisce la linea principale il più forte. Certo, e questo è l'Erasmus, secondo Neri Marco Re. Erasmus è stupefacente, come si intuisce dal nome tutelare che lo ha ispirato. Nonostante il suo nome, Erasmo da Rotterdam, in realtà era di Amsterdam. Ed è proprio qui, in un coffee shop medievale, che evidentemente ha scritto il suo elogio alla follia. Erasmus aumenta le competenze. Ora, non voglio dire che dopo uno stage all'estero, quando torni in Italia, sai costruire un carro armato su un trattore, però mi dicono che nel nord-est sia successo qualcosa di simile, per cui Erasmus è rivoluzionario. Come dice giustamente lo slogan, cambia la vita, apre la mente. Attenzione però a non invertire i termini, perché se apre la vita e cambia la mente diventi Flavia Vento immediatamente. Quindi Erasmus è multiculturale. A questo proposito ho due notizie, una buona e una cattiva. La buona è che da oggi gli studenti Erasmus potranno utilizzare un traduttore simultaneo. Quella cattiva è che il traduttore è Antonio Di Pietro. E su questo traduttore riaccogliamo Neri Marcuretti. Sei divertito. C'era anche quello della rappresaglia, che non era male, vero? Erasmus è rappresaglia, cioè ogni studente italiano che va in Germania ne arrivano 10 tedeschi in Italia, era così? Sì, okay. Esattamente, sì, insomma. Questo sì è insomma un intervento ovviamente giocoso, scritto insieme ad Alessandro Rossi, che conosci bene. Insomma, abbiamo fatto questa gita a Firenze in questi giorni, dove in realtà sono impegnato a teatro, però mi ha fatto piacere comunque andare lì per questa per questo piccolo intervento, insomma, leggero all'interno di altri interventi sicuramente più seri e ad hoc. E comunque, insomma, sicuramente, ecco, l'idea dell'Europa, come dicevi poco fa, non mi è avulsa, e mi piace comunque il mondo della scuola degli studenti, e parlando poi con i professori, con i presidi, insomma, di tanti istituti, mi dicevano che il settore scuola è l'unico che sfrutta tutti i fondi comunitari legati a progetti, e anzi ne avrebbe anche di altri, mentre e quindi comunque, ecco, sfrutta fino all'ultimo euro disponibile per progetti, mentre in altri settori sappiamo che c'è un po' di pigrizia o di distrazione, perché ci sono tanti fondi europei inutilizzati, e se uno presentasse progetti ovviamente potrebbe attingervi, e quindi la scuola in questo senso almeno... Ah, certo, insegna, magari, esatto, un ottimo ferro. Tante altre mancanze, o comunque sono sempre legate magari ai cambiamenti di programma, certo, ministeriali, cambi di ministri, eccetera, quindi inversioni, retromarce, eccetera eccetera, con quei problemi che sicuramente conosciamo tutti. Però da questo punto di vista, insomma, è sicuramente un settore che merita, insomma, un applauso. Grazie vero a Neri Marcuretti. Ricordiamo, a Firenze con lo spettacolo Beatles Submarine insieme alla banda Osiris. A Roma, scusa, tra Firenze e Roma ho sbagliato città. Roma ancora due giorni, poi abbiamo due Torino, due Genova e poi Carpi a fine aprile. Ottimo, ciao Neri, grazie ancora. Ciao. E noi diamo il benvenuto anche a Giacomo D'Arrigo dell'Agenzia Nazionale Giovani, una delle braccia operative di Erasmus Plus. Ciao Giacomo, ben ritrovato. Ciao Fede, ciao. Buongiorno a chi ci ascolta. Allora, una giornata importante. E un saluto a Neri Marcuretti. Io posso dire, io c'ero. tu c'eri, come se c'eri. E non c'eri solo in questa giornata di veste ufficiale, perché con l'agenzia è da settimane che state lavorando non solo al lancio, ma alla concretizzazione poi di quello che è Erasmus Plus. Com'è andata la giornata e quali sono secondo te i messaggi caldi da rilanciare assolutamente? No, la giornata di Firenze è andata benissimo, ci sono già stati diversi appuntamenti che promuovono appunto Erasmus Plus, però il lancio ufficiale a Firenze è stato un appuntamento molto importante, organizzato insieme a Indire ISFOL e le altre agenzie che con noi gestiscono il programma Erasmus Plus, e è stato un evento molto bello, perché ha alternato appunto momenti importanti, testimonianze, interventi istituzionali, ma anche leggerezza e concretezza delle cose realizzate, leggerezza con Neri Marcuretti e concretezza con le tante esperienze citate. Certo, con l'Agenzia Nazionale per i Giovani dove punterete soprattutto? Perché è un ventaglio vastissimo quelle delle opportunità che si proporranno ai ragazzi. Secondo te ci sono dei canali privilegiati o da privilegiare? Sì, come hai detto tu prima, noi stiamo facendo un lavoro di promozione molto forte e diffuso, perché l'obiettivo è quello di far arrivare tutte le informazioni e gli strumenti possibili al più alto numero di ragazzi e di ragazze in tutta Italia, non soltanto nei grandi centri. Anche per questo noi stiamo organizzando una serie di info day in giro per l'Italia, e questa settimana, magari a mercoledì e giovedì, saremo ad Ascoli, quindi appunto portare, per rispondere alla tua domanda, tutte le informazioni in tutte, anche punteremo sul coinvolgimento anche dei centri minori, e ad Ascoli faremo l'info day per il centro Italia, e poi sulla mobilità per associazioni e per anche per di collegamento per i locali, sul servizio volontariato europeo L'obiettivo nostro è quello di fare in modo che i ragazzi e le ragazze abbiano la più alta possibilità di strumenti e risorse che sia loro spendibile poi nel mondo del lavoro. Certo, l'obiettivo è questo nei prossimi 7 anni, insomma, riuscire a coinvolgere ben 4 milioni di studenti in queste che sono attività di mobilità, per lo studio, per la formazione e per il lavoro, perché la mobilità poi è un qualcosa, è un segno forte per il resto della vita, è l'Europa delle opportunità e qui si concretizza anche in questi progetti. E, Giacomo, come sempre il vostro sito internet, che è molto agile, molto ben aggiornato, è il punto di riferimento per tutte le informazioni, sì, giusto? Noi abbiamo... siamo attivissimi sul sito internet, che è aggiornato costantemente, ma anche sul nostro social, sui social Facebook e Twitter, anche questi aggiornati in maniera costante e puntuale. D'altronde ci rivolgiamo a un pubblico giovane, quindi che ha facilità con questi strumenti e stanno funzionando moltissimo. Abbiamo aumentato di molto proprio i nostri contatti, anche la capacità di risposta che stiamo dando attraverso questi strumenti, e perché appunto bisogna capire che non c'è soltanto lo spread, i parametri e le cose negative che lo racconta, a cui l'Europa ci fa pensare, ma ci sono anche occasioni e possibilità. Erasmus Plus è uno di questi. Agenziagiovani.it, il sito ufficiale. Giacomo, partiresti per un Erasmus domani? Sì, partirei subito, pure oggi pomeriggio, non domani. Grazie davvero Giacomo, a te e a tutto il team. Grazie a te, Federico, grazie a voi. Ciao. Buona giornata. Ciao. Un Aeropostit, la pubblicità, poi torniamo qua in diretta con l'Altra Europa. Aeropostit. Progetto Story, Strengthening the Training Opportunities for International Youth. La rete di studenti Erasmus e ESN ha lanciato una serie di sondaggi per capire dove si può migliorare l'accessibilità e la qualità dei tirocini internazionali e intanto accrescere la consapevolezza delle opportunità che i tirocini offrono ai giovani. Possono rispondere al sondaggio studenti, istituti di istruzione superiore, agenzie nazionali, aziende o organizzazioni di accoglienza. Per completarli sono necessari 15 minuti e gli studenti che risponderanno avranno l'opportunità di ricevere anche dei premi. Per partecipare andate su storyproject.eu/questionnaire-students. L'altra Europa. Give me long days in the sun, prelude to the nights to come, previews of the mornings playing in our lazy. Give me something fun to do, like a life of loving you. Kiss me quick now, baby, I'm still quick. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Chiocciola Aeronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia se volete trovarci su Facebook e su Twitter. C'è qualcosa nell'acqua, la canzone con cui riapriamo questa seconda parte del programma, perché ci piace, come sapete, raccontarvi l'Europa delle opportunità e quindi andiamo anche a vedere in diretta l'Europa delle opportunità, cosa diventa, cosa si trasforma. Abbiamo parlato un attimo fa di Erasmus Plus o Plus, a seconda di chi si sente una pubblicità dice Plus, una pubblicità dice Plus, noi così alterniamo con tranquillità. Nel vecchio programma Erasmus, nel vecchio programma di mobilità, c'era il progetto Comenius, che adesso verrà inglobato nel prossimo settennio nell'Erasmus Plus, e il progetto Comenius è dedicato alla mobilità degli studenti delle scuole superiori, e andiamo a cogliere in diretta uno di questi progetti. Lo facciamo andando a Venezia con i ragazzi del liceo Laura Bassi di Bologna, che stanno svolgendo proprio un Comenius in collaborazione con altre due scuole. Adesso ci faremo spiegare meglio, e il tema è quello dell'acqua. Diamo il benvenuto a Giorgia. Ciao Giorgia. Buongiorno. Grazie per l'attesa. Siete su un traghetto? Sì, siamo sul traghetto, infatti sente malissimo, però fortunatamente siamo per scendere. Ci proviamo. Allora Giorgia, chi siete e cosa state combinando? Allora, siamo una terza superiore del liceo linguistico, E il progetto Comenius è un progetto messo a disposizione dall'Europa per gli studenti liceali, sì, che coinvolge principalmente, si basa sullo scambio interculturale. Momentaneamente stiamo ospitando i ragazzi polacchi e spagnoli per questo progetto, che quest'anno è a tema dell'acqua, si chiama Le voci dell'acqua, e stiamo andando a Venezia appunto per questo, perché notoriamente è città in Italia con più acqua. Guarda, direi quasi al mondo. Esatto. E quindi state accompagnando lì i ragazzi e andate a fare attività di ricerca, immagino, di tuffo culturale. Ieri gliel'abbiamo presentata in modo teorico, oggi andiamo sulla pratica. Perfetto. E sempre per rimanere nella pratica, per esempio, tu ospiti qualche studente in questo scambio? Sì, io ospito un ragazzo polacco. Uh-huh. Abbiamo tutti quanti preso questo progetto in modo molto, molto serio, stiamo lavorando un po' tutti in gruppo. Infatti lunedì faremo un'attività anche noi radiofonica, giusto per rimanere in tema. Bravi. Mm-hmm. Registreremo delle domande sull'acqua, appunto su anche vista dal punto filosofico, cantautoriale, artistico. Certo. Scientifico, tutto. Giorgia, ma al di là del progetto, tu e voi avete scelto il liceo linguistico, quindi anche come diceva Neri Marco Re prima, c'è già un'apertura, una voglia di incontro con altre culture. Poi però nella quotidianità, in queste occasioni di incontro e di confronto, cosa succede? Credo che queste ore, queste giornate passate insieme a questi ragazzi e queste ragazze valgano più forse di 1000 libri nello specifico di questa esperienza. Sì, assolutamente, perché dovendosi creare anche dei legami a livello umano, si cerca sempre di farsi capire e di vivere questi momenti nel miglior modo possibile. Quindi l'uso della lingua deve essere mirato, deve essere giusto, corretto, e si cerca sempre di trovare i termini adatti per mettere a loro agio le persone che vengono ospitate. Mm-hmm. Quindi c'è un approfondimento sicuramente linguistico, ma anche un'apertura mentale a quello che è poi un mondo comune, quindi siamo tutti studenti, siamo tutti ragazzi e non è una lingua non compresa che deve dividerci. Voces dell'Agua, lineetlb.blogspot.it è il sito del blog in più lingue, dove convoglierà tutto il progetto, questo progetto Comenius, appunto denominato Le voci dell'acqua, che vede il liceo Laura Bassi di Bologna coinvolto insieme a una scuola polacca e a una scuola spagnola. Giorgia, grazie davvero. Grazie a voi. Salutaci tutti i ragazzi e tutte le ragazze coinvolte in questo bel progetto. Ciao e buona Venezia. Grazie ancora, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Empower yourself. Scambio giovanile in Slovacchia a luglio. Parlare di occupazione e disoccupazione giovanile, confrontandosi con altri 40 giovani provenienti da Italia, Slovacchia, Croazia e Turchia ed elaborare proposte e idee. È lo scopo del progetto promosso dall'associazione slovacca Magna Carta e dall'italiana Frontiere, che si tiene a Košice in Slovacchia dal 2 all'11 luglio. Il progetto si inserisce nel programma dell'Unione Europea Youth in Action e le discussioni si svolgeranno attraverso attività di gruppo per problematizzare la tematica e indagare quella che è la reale cognizione della questione, anche attraverso metodi di educazione non formale. Ci saranno inoltre serate e momenti di svago in cui ci si potrà conoscere meglio e si potranno conoscere le tradizioni del paese che ospita lo scambio e quello dei propri compagni di viaggio. Per partecipare occorre avere tra i 18 e 25 anni. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 20 aprile. Per saperne di più, frontierenews.it. Avere un'idea e trovare i fondi per poterla realizzare. Anche questa, l'Europa, l'Europa che ti chiede comunque di essere propositivo, di essere intraprendente, di darti una mossa e magari partire proprio dagli aspetti meno belli dell'Europa per trovarla questa idea. E l'aspetto meno bello in questo caso è stata la crisi. Tutto ciò l'ha fatto Tommaso Tellung, direttore dell'International Theatre, che si occupa di programmazione di spettacoli internazionali e autore di un progetto molto importante che mette appunto la crisi, il racconto della crisi, al centro. Ciao Tommaso, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie mille di aiutarci nella disseminazione di questi nostri progetti europei. Disseminiamo. È un po' quello, è una delle cose principali che chiede l'Europa, no? Di far conoscere la progettualità oltre il progetto stesso. E Tommaso, dai, facci una fotografia di quello che hai e di quello che avete ideato e avete messo in scena, appunto, non solo metaforicamente. Sì, quello che abbiamo sentito è un piccolo stralcio di uno spettacolo che è stato il risultato di questa progettualità iniziata 2 anni fa e che sta volgendo al termine, una progettualità che ha visto coinvolti 7 paesi europei, il cui leader è la Francia, quindi io sono entrato come partner. E, al centro c'è l'argomento della crisi, sì. Come rappresentare la crisi attraverso il teatro. Quindi il progetto prevedeva due linee guida fondamentali. Da un lato il leader francese avrebbe ripreso un testo di David Hare che si chiama The Power of Yes, che venne creato nel 2008 a seguito del crack finanziario delle banche Lehman Brothers eccetera. Sì. E quindi lui ha esplorato, mettendo in scena un nuovo spettacolo con un attore di ogni paese partecipante al progetto, ha indagato un po' il percorso e l'evoluzione di questa crisi dal 2008 a oggi. Quello che invece ogni paese partecipante, ogni partner è stato chiamato a fare è di attualizzare, raccontare la crisi del proprio paese così come ognuno la viveva. E quindi io ho creato un gruppo di persone, ho fatto dei provini 2 anni fa, ho tirato dentro 20 di persone con le quali ci siamo messi a intervistare politici, economisti, gente di strada, giornalisti, di tutto. Abbiamo raccolto tantissimo materiale per capire che cos'era la crisi, perché è un po' una moda, no? Parlare della crisi e lamentarsi. E noi volevamo capire. Andare oltre, certo. Esatto. E da qui è nato questo spettacolo che in sostanza siamo andati all'origine, nel senso abbiamo voluto raccontare attraverso una storia, una favola quasi, che cos'è la crisi, cioè da dove nasce, qual è l'origine proprio di questa crisi e l'abbiamo messa in scena. Ovviamente essendo uno spettacolo internazionale che ha debuttato ufficialmente l'estate scorsa nel teatro di Epidauro in Grecia, quindi un evento abbastanza importante, ha delle caratteristiche internazionali, nel senso che ha il supporto di musiche, video, è molto emotivamente coinvolgente e devo dire che l'abbiamo fatto poi anche per le scuole qui in Italia per fare un riscaldamento prima del debutto che abbiamo martedì. Ok, Tommaso, ti chiedo, guarda, perché abbiamo pochissimo tempo, diamo un attimo le informazioni del traffico, torniamo e veramente in un minuto ci spieghi cosa succederà a Roma il 15 e il 16 aprile al Teatro dell'Angelo. L'altra Europa. Siamo insieme a Tommaso Tellung. Tommaso, allora, cosa accadrà al Teatro dell'Angelo il 15 e il 16 aprile? 15 e 16 aprile alle 20.45 si avrà l'occasione di vedere, perché mettiamo in scena finalmente questi due lavori, il mio lavoro dell'equipe italiana e quello dell'equipe internazionale. Sono in una serata come se fosse uno spettacolo con due atti. Nel primo atto c'è Esposti a tutto, che è lo spettacolo che mi riguarda, che ci riguarda, riguarda la nostra crisi italiana, crisi poi di identità, crisi personale, sociale, politica, economica, ecco, ha diverse sfaccettature. E poi come secondo atto c'è la versione internazionale che ha coinvolto appunto tutti gli attori di tutti i paesi, quella sarà in inglese. Benissimo. La nostra versione in italiano. Il sito per tutte le informazioni? www.teatrodelangelo.it www.internationaltheater.org. Perfetto, grazie, buon lavoro e complimenti grazie per questo te, bel progetto. Ciao, buon grazie, sabato. Ciao, ciao. Come il cemento reale, il cemento attuale, il cemento contemporaneo di questa Europa in cui ancora crediamo da sempre. In questo programma tentiamo di mettere al centro la cultura e lo facciamo anche con chi con chi la va a diffondere, con chi scende in strada, con chi incontra la gente, con chi ci crede. E quello che sta succedendo a Berlino in questi giorni, dove all'interno di una rassegna che dura diversi mesi, si chiama Mondo, targata Mondo Libri e Istituto Italiano di Cultura di Berlino, una rassegna che cerca di contaminare, questa è la parola chiave. C'è Massimo Carlotto, la musica che state ascoltando è una canzone Oltre il mare di Maurizio Camardi e Mauro Palmas, perché Massimo Carlotto, accompagnato da questi artisti, da questi musicisti, sta portando in scena la lettura teatrale della Via del Pepe, testo poetico che mette l'integrazione, che mette forse la voglia di Europa, la voglia di Occidente, la voglia di futuro al centro. E Massimo Carlotti qua con noi. Ciao Massimo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie. È un'altra Europa quella che cercano i protagonisti dei tuoi racconti, di chi sceglie di affrontare il mare per cercare altro. Sì, siamo qui a Berlino per mettere a confronto con moltissimi italiani e con moltissimi tedeschi il concetto di emigrazione, come può essere diverso. La crisi che ti manda via dall'Italia ti fa diventare berlinese, oppure la guerra, la fame, la miseria e anche i disastri ambientali che spingono migliaia di persone ad attraversare il mare. Ecco, noi stiamo raccontando questo, stiamo raccontando attraverso e stiamo raccontando la straordinaria storia degli abitanti di Lampedusa, che stanno affrontando un'emergenza che investe tutto il Mediterraneo, e stiamo raccontando anche proprio il viaggio di queste persone, che è un viaggio incredibile che si conosce molto poco. Mm-hmm. Da Lampedusa a Berlino, metaforicamente, oltre mare, questa rassegna, i tuoi racconti, le tue storie... Com'è raccontare l'Europa, la voglia d'Europa dal cuore dell'Europa, cioè da Berlino? Che sensazione ti dà? Uno strano osservatorio, credo, molto particolare. Sì, è uno strano osservatorio molto particolare, e l'importante per noi, anche da un punto di vista non solo narrativo, anche musicale, è essere assolutamente aderenti alla realtà. Quello che noi raccontiamo sono storie vere, sì. Anche se inquadrate con una storia fantastica, poi ci interessa la realtà, perché oggi le persone hanno voglia di misurarsi su questo, sulla realtà, e confrontarsi. E l'Europa sta diventando proprio un luogo non solo di incontro, ma di scontro, ma soprattutto di riflessione. È veramente straordinario, dopo lo spettacolo, incontrare le persone e parlare di Europa, di emigrazione, di gente che vuole assolutamente, e voglio dire, fondersi in un unico tessuto sociale. E continuiamo a ricevere storie, per esempio abbiamo conosciuto ieri una storia che racconteremo la prossima volta, nel prossimo spettacolo, perché così diventiamo collettori di storie che poi continuiamo a raccontare. Sono storie che hanno un lieto fine? A volte sì, a volte no. Per esempio raccontiamo la storia vera di un pasticcere iraniano, sì, che è approdato sulle spiagge della Puglia, che ha incontrato un dentista ed è riuscito a raggiungere la Germania grazie alla solidarietà di questo dentista, e adesso questo pasticcere è qui e vive tranquillamente. Credo che per un narratore, per un intellettuale, insomma, questi siano stimoli vitali. A te la parola Europa oggi cosa suscita, Massimo? Ma suscita una necessità, una necessità impellente di superare alcuni problemi, alcuni paletti, alcuni confini, e proprio di ritrovarmi proprio al centro di questa dimensione. Perché tutti dovrebbero essere al centro di questa dimensione, avere una concezione diversa della vita in relazione ai luoghi, non al proprio luogo, alla propria identità, ma mescolarsi insieme agli altri. Ieri sera hai portato in scena Reading, verrà replicato oggi e domani alle 20 all'Arkstad Palast. È in italiano ma sottotitolato in inglese o in tedesco? In tedesco, ok. E non solo, oggi pomeriggio, se non erro, avrai un incontro anche con i tuoi lettori presso la libreria, giusto? Presso Mondolibro. Sì, presso Mondolibro. Perfetto, insomma una full immersion culturale in questa Berlino che accoglie un pezzo d'Europa. E grazie davvero Massimo, complimenti per il lavoro. Grazie. Ciao, buon sabato. Ciao. Europost-it. AI, European Youth Event 2014. 3 giorni di dibattiti, seminari, giochi, laboratori per raccogliere la visione del futuro dell'Europa da parte dei giovani. È lo European Youth Event, che si svolgerà dal 9 all'11 maggio a Strasburgo con il motto Idee per un'Europa migliore. All'evento parteciperanno migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni, provenienti da tutti e 28 i paesi membri dell'Unione Europea, dai paesi candidati e da quelli vicini. Per conoscere tutti i dettagli, il programma e scoprire come partecipare, andate su europarl.europa.eu/AI2014. E se non potete andare a Strasburgo, seguite le attività online. Cercate European Youth Event su Facebook o twittate con hashtag AI2014. Questi sono i nostri Europost-it. Come sempre vi ricordo che potete ritrovare tutti i link sulle nostre pagine social, Facebook e Twitter, oppure sul nostro sito radio24.it, da dove potrete poi scaricare il podcast della puntata. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, come sempre un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Aina e Katia Marinelli che con me hanno scritto la puntata, Camilla Tomadini oggi in assistenza e la parte tecnica invece c'era Roberto Scaltritti. L'Altra Europa chiocciola radio24.it è il nostro indirizzo mail se volete contattare direttamente la redazione. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.